Quindi, martedì prossimo, mettetevi in ascolto. Le pubbliche relazioni avranno una settimana per promuovere lo spettacolo. L'indice d'ascolto dovrebbe salire alle stelle, 50 punti almeno. Bill verrà, in un primo momento, licenziato, salvo poi offrirgli la possibilità di salutare il suo pubblico, smentendo i propositi di uccidersi. Ovviamente il tutto, come aveva previsto egli stesso, proprio per ottenere un picco di ascolti. Durante la trasmissione, però, egli si lancerà in uno sproloquio grottesco ed invasato, che batterà sì tutti i record di pubblico, e il network si convincerà, e lo convincerà, a dargli uno spettacolo tutto suo, dove urlare tutta la sua rabbia. Bill entra sempre di più nella realtà alterata del suo personaggio e comincerà a sentire voci che lo guidano. Egli soffrirà di costanti allucinazioni, ma la sua popolarità crescerà sempre di più. Il pubblico lo segue ed egli diventa un vero e proprio telepredicatore. Arriverà però, nella sua follia, ad attaccare lo stesso network, chiedendo al pubblico di protestare con la Casa Bianca. Lei ha osato interferire con le forze primordiali della natura, signor Bill! E io non lo ammetto! È chiaro? Lei crede di aver solo fermato una trattativa di affari, ma invece non è così! Gli arabi hanno portato miliardi di dollari fuori da questo paese e ora ce li devono riportare! È il flusso e riflusso, l'alta e bassa marea, è il giusto equilibrio ecologico! Lei è un vecchio che pensa in termini di nazioni e di popoli. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale, dominio dei dollari. È il sistema internazionale, valutario, che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'ordine naturale delle cose oggi. Questa è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggigiorno. E lei ha interferito con le primordiali forze della natura. E lei dovrà espiare. Capisce quello che le dico, signor Bill? Come abbiamo ascoltato, il proprietario del network interverrà direttamente e plagerà l'allucinato Bill, sostituendosi alle voci che egli sentiva, dandogli quindi egli stesso delle indicazioni su cosa dire. Col tempo però il pubblico comincerà a stancarsi e gli indici di gradimento a scendere. Si penserà a questo punto di licenziare nuovamente Bill, ma si finirà per organizzare il suo omicidio, sempre, manco a dirlo, in diretta TV. Il film, nelle intenzioni originali, voleva essere più una riflessione sulla disumanizzazione delle persone che una devastante critica sulla televisione. Alcuni vedono anche un legame con il suicidio in diretta della giornalista televisiva Christine Chubbuck, che è una cosa veramente accaduta, che si uccise con un colpo di pistola alla testa durante il suo talk show Suncoast Digest, che prima di premere il grilletto dichiarò: in linea con la recente politica di Channel 40, Sangue e Budella, state per vedere a colori un altro tentativo di suicidio. In realtà, il film diventerà noto come la più tranciante critica al mondo della televisione spettacolo, con particolare riferimento, come abbiamo detto, alle trasmissioni cosiddette di infotainment, il cui fine ultimo sarà lontanissimo da quello di raccontare la verità. Un'evoluzione notevole, da sottolineare nella trama del film, è quella che mentre all'inizio c'è un'attenzione morbosa alla audience e agli sponsor, la stessa diventerà più avanti un'attenzione principalmente rivolta alla possibilità di influenzare il pensiero del pubblico attraverso l'allucinato Bale, con l'indicazione del proprietario della rete. Stephen Colbert dirà: Howard Bale è un precursore delle persone che ti dicono come ti senti, non solo quelle dei programmi notturni, di cui io sono una specie di parodia, non solo gli opinionisti, ma anche la gente dei notiziari. Lo sceneggiatore Aaron Sorkin affermerà in seguito che nessun anticipatore del futuro, nemmeno Orwell, ci ha mai visto giusto come Chayefsky, che è lo sceneggiatore, ricordo, quando scrisse Quinto Potere. Secondo Sorkin, se mettete oggi Quinto Potere nel vostro lettore DVD, vi sentirete come se fosse stato scritto la settimana scorsa. La mercificazione delle notizie e la svalutazione della verità sono parte del nostro attuale modo di vivere. Leggiamo insieme alcune delle citazioni dal film. Howard Bale. Buonasera, oggi è mercoledì 24 settembre e questa è la mia ultima trasmissione. Ieri ho annunciato durante questo programma che io mi sarei pubblicamente suicidato. Chiaramente un gesto da pazzi. Sapete perché l'ho detto? Avevo esaurito le cavolate. Cazzate sono tutte le ragioni che troviamo per vivere e se non riusciamo a inventare ragioni nostre, ricorriamo alla cazzata di Dio. Sì, perché non sapendo il motivo per cui dobbiamo sopportare tutto questo dolore, queste umiliazioni, cerchiamo di avere da qualche parte chi invece lo sa. Ed ecco allora la cazzata di Dio. Max Schumacher, che era il capo della redazione News prima di essere licenziato, che parla a una produttrice. Tu sei la televisione incarnata, Diana, indifferente alla sofferenza, insensibile alla gioia. Tutta la vita si riduce a un cumulo informe di banalità. Guerre, morti, delitti sono uguali per voi come bottiglie di birra e il quotidiano svolgimento della vita è solo un'orribile commedia. Tu frantumi anche le sensazioni di tempo e spazio in frazioni di secondo e lunghezza di segmenti. Sei la pazzia, Diana, pazzia furiosa e tutto quello che tocchi muore con te. Ti invito d'ora in avanti, quando guardate uno dei molti talk show, a riflettere se il formato permetta, anche qualora ci fossero ospiti preparati ed in perfetta buona fede, e non è sempre il caso, di avere un dibattito utile con delle riflessioni. Provate a notare, in particolare, come vi sia una gara ad accaparrarsi l'ospite che la spara più grossa, che genera le polemiche più grosse e come egli o ella sia contrapposto con un esperto, per pulirsi la coscienza, ad aggiungere anche qualche politico che si indigna e poi giornalisti schierati da una parte e dall'altra. Ovviamente dobbiamo anche notare come questo, per molti, professori e giornalisti, sia divenuto un impegno a tempo pieno e dovremmo quindi chiederci dove trovano il tempo per fare il loro mestiere principale, ovviamente se esso ancora esiste. La scusa propalata per tutto ciò è la par condicio, la doverosa possibilità di esprimere qualsiasi opinione in libertà, per quanto strampalata, per quanto demagogica, e ovviamente lo sdegno per la censura a cui sarebbe sottoposto, pur essendo H24 in televisione, il personaggio di turno. Quando nel film si inquadra il corpo senza vita di Howard Bale, una voce fuori campo recita: questa è la storia di Howard Bale, il primo caso conosciuto di un uomo che fu ucciso perché aveva un basso indice d'ascolto. Nella realtà, vittima della sete di audience della moderna TV, è però il pubblico e la verità, sempre se questa parola significa ancora qualcosa. Pubblico, sia chiaro, complice di tutto ciò. Ascoltiamo, in conclusione, una clip che non proviene da Quinto Potere, ma dal film Private Parts, che parla del contestatissimo e seguitissimo presentatore americano Howard Stern, rilanciato in Italia dal programma La Zanzara, che dice molto di come funziona il business della televisione, ma anche e soprattutto del nostro animo e di ciò che esso abilita in persone con pochi scrupoli. Ed in un'ultima analisi, forse, esso è la vera causa di ciò di cui abbiamo trattato oggi. L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette.